Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento assieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. L'argomento di oggi è legato alla telefonia, insomma ormai ci siamo anche un po' abituati, no, nel tempo con il mercato libero da quella che era la vecchia Telecom. Ogni tanto decidiamo di cambiare il nostro operatore e quindi passare ad altri operatori telefonici, e questo va bene, è giusto che sia così nel libero mercato, ma la cosa che infastidisce molto è quando tu non pensi di cambiare operatore e di fatto ti trovi ad avere un contratto con qualcun altro. Sì Francesco, come hai detto tu, capita sempre più frequentemente questo genere di truffa, ovvero di persone che spacciandosi per altri gestori o altri operatori riescono a storcere contratti all'insaputa dell'utente, per poi scoprire quando arriva la prima bolletta di essere migrato sotto un altro gestore e la conseguenza di dover sostenere dei costi per dover rientrare col precedente fornitore. In questo caso l'ultima segnalazione che come Adico vogliamo fare, che ha tenuto conto anche di queste continue segnalazioni che in quest'ultimo periodo continuiamo a ricevere, riguarda il gestore di telefonia fissa e in particolar modo una nuova compagnia che si chiama Ultracom, il quale si presentano come fornitori della Telecom e sulla proposta di farti sottoscrivere offerte più vantaggiose rispetto a quelle che sono dei pagamenti che tu effettui, ti fanno migrare di compagnia tua insaputa. Ecco, la cosa che colpisce un po' in questa faccenda è che spesso chi chiama dice di essere Telecom e infatti ha in possesso numerose informazioni sul tipo di contratto, su quello che è il rapporto tra te utente e la linea che hai, e quindi questo porta le persone a pensare di essere proprio in collegamento con la Telecom stessa. Sì, questo sbalordisce un po' tutti perché i dati in cui questi operatori sono in loro possesso fanno addirittura pensare che si trattano o potrebbero trattarsi, meglio insinuare, di persone che magari lavorano alla Telecom e operano anche con questa compagnia. Non vogliamo assolutamente dire questo, però pensarlo diventa un po' inevitabile dare racconti delle persone che hanno raccontato un pochino quelle che sono le domande e le informazioni che questi operatori avevano sul contratto degli utenti. Però a prescindere da queste insinuazioni, che non si possono assolutamente dimostrare, che non vogliamo neanche credere, siamo ancora qui a parlare come persone convinte di poter aderire a un'offerta migliore per poter risparmiare dei soldini, in realtà poi scoprono di trovarsi con un altro gestore, e la cosa peggiore sono i costi che una persona deve sostenere per poter ritornare presso l'utente di cui era prima affezionato cliente. In questo caso si parla di tua 100 euro, quindi chiaramente tutte iniziative che possono anche far desistere alle persone a portare avanti le proprie ragioni in virtù di quello che poi è un contratto che diventa anche difficile poter dimostrare che è stato sottoscritto in maniera, diciamolo, poco chiara o onesta rispetto a quelli che sono dei contratti regolari, che poi sai solamente tanti casi possono dimostrare il modo con cui questi gestori hanno operato, ma che nelle singole posizioni complica certamente quello di dover dimostrare le proprie ragioni. Certo, ricordiamo che questi contratti vengono fatti telefonicamente, no? Quindi non ci arriva un foglio di carta a casa da sottoscrivere, da girare, ma ci vengono poste delle domande che vengono registrate, e quindi è facile poi confondere il nome Ultracom con Telecom probabilmente. Sì, certamente, intanto ricordiamo che Ultracom è una compagnia canadese, ha sede a Toronto, e per cui la dice tutta anche sul tipo di operatore rispetto alla nostra italiana. Però certamente, come hai detto te, tante cose messe assieme non aiutano a fare chiarezza ma a confondere le cose. Poi è vero che se risponde ai quesiti telefonicamente si dovrebbe avere ricevere un contratto cartaceo a casa sottoscritto, in realtà poi il contratto parte, il contratto non arriva, quando arriva scopriamo per buona prassi che diventiamo loro clienti già da parecchio tempo e alla fine i costi sono quelli che fanno decidere se desistere rispetto alle proprie ragioni o far valere invece i propri diritti. Dico qui, grazie anche al tuo lavoro, vogliamo fare questo tipo di informazioni e quindi di evitare a credere quelle che sono anche le promesse che i call center fanno, ormai sappiamo che tramite call center si muove molto delle offerte, delle proposte commerciali in Italia e purtroppo l'unico modo di difendersi è quello di iscriversi al registro delle opposizioni o continuare a avere pazienza e sbattere giù la cornetta se non si vuole correre il rischio di trovarsi con un'altra compagnia rispetto a quella che avevamo. E quindi un consiglio che possiamo dare in realtà non c'è, prestare molta attenzione se decidiamo di fare un contratto o sottoscrivere qualche cosa telefonicamente e se si può è sempre meglio farsi spedire a casa il contratto prima da firmare. Esattamente, se si hanno dubbi non esitare a contattare l'Adico perché purtroppo oggi dobbiamo dire Francesco che le truffe stanno diventando sempre più tecnologiche e soprattutto si stanno comportando in maniera sempre più furbesca rispetto a quello che invece il codice consumo dovrebbe prevedere, che è quella di una chiara trasparenza ed una semplice informazione. Quindi molto attenti, nessuno regala niente e se si ha dubbi, come hai detto, farci spedire cartaceo prima di dire tanti sì e poi scoprire la fregatura. E allora è importante ricordarsi che esiste l'Associazione Difesa Consumatori con il sito associazionedifesaconsumatori.it dove poi troviamo insomma i modi per contattare l'associazione stessa e farci aiutare. Grazie a Carlo Garofolini, l'appuntamento è tra un paio di giorni. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.